Soli contro tutti. Tiro per le strade della mia città e mi sento più solo che mai, guardando sempre dall'alto al basso, da borghesi che non capiscono un cazzo. Senti si sbatte e prende forte, lottando per un giusto ideale, mentre in TV e i giornali distruggo tutto ciò che abbiamo creato. Soli con tutti, perché non grido c'è, e quello unito già sarà. Yeah.